Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Domani, giornata mondiale delle malattie rare, nata 13 anni fa, ha come obiettivo principale proprio il raggiungimento di una piena consapevolezza da parte di pazienti, cittadini e istituzioni di cosa siano le malattie rare e del perché debbano essere riconosciute come una priorità di sanità pubblica. Ai nostri microfoni la dottoressa Francesca Pasinelli, direttore generale della Fondazione Telethon. Buongiorno. Buongiorno. Questa priorità di sanità pubblica che viene identificata nel programma della giornata mondiale delle malattie rare quest'anno è proprio lo stesso obiettivo che Fondazione Telethon sta perseguendo, che condivide e che ha posto al centro della propria missione da 30 anni a questa parte. Per noi la ricerca scientifica è dominante ed è un impegno che chiediamo ai ricercatori certamente, ma anche facciamo in modo che le famiglie affrontino le sfide del quotidiano e la sofferenza anche delle malattie che stanno vivendo, senza perdere la speranza e affidando proprio alla ricerca il compito di risolverle, di garantire un futuro migliore in termini di cure e di terapie proprio per i pazienti di oggi, ma anche per i pazienti che verranno. Dottoressa Pasinelli, la ricerca ha raggiunto risultati sino a qualche anno fa impensabile. Ce ne vuole parlare? Certo, tutti questi anni di ricerca hanno portato sicuramente a comprendere molto bene i meccanismi alla base di queste malattie. Allora, dopo tantissimi anni di ricerca proprio di laboratorio, ormai le terapie per le malattie rare stanno diventando una realtà. All'interno dei programmi di Fondazione Telethon sono già state curate 6 malattie genetiche. Proprio oggi in un'udienza al Quirinale la mamma di un bimbo che si chiama Leon, che è trattato per l'ultima malattia di cui ci siamo occupati, che è la mucopolisaccaridosi di tipo primo, la sindrome di Hurler. Ebbene, questa mamma racconterà come grazie agli straordinari risultati della ricerca condotta presso l'ospedale San Raffaele Telethon di terapia genica, dice lei testualmente, la malattia del suo bimbo è stata cancellata come una gomma. E sembrava impossibile anni fa immaginare di correggere certi difetti che rappresentavano di fatto una condanna definitiva. Invece queste malattie, penso all'ADA-SCID, questa grave immunodeficienza, la sindrome di Wiskott-Aldrich, la leucodistrofia metacromatica, malattie tanto brutte quanto sono brutti questi nomi, anche difficili da dire, e adesso la mucopolisaccaridosi di tipo primo, cioè la sindrome di Hurler, di fatto diventano dei problemi che la ricerca è riuscita a risolvere. Bene, per oggi è tutto sulla pagina di Obiettivo Salute, il link ai siti, ai portali dove potete trovare informazioni e aggiornamenti sulle malattie rare, mentre la programmazione di Radio 24 continua con Melog. Io vi aspetto in diretta Facebook. Oggi ci occupiamo del nostro apparato muscolo scheletrico insieme ad un fisiatra, il dottor Stefano Respizzi.